Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di due imprenditori che sono scomparsi recentemente, ma che hanno segnato profondamente la vita economica italiana. Un primo imprenditore molto noto, Vittorio Merloni, protagonista della Via Adriatica allo sviluppo con la fondazione della Ariston, della Merloni Elettrodomestici, e ne parleremo con Valeriano Balloni. E il secondo imprenditore, diciamo un rappresentante della Brianza produttiva, è Giacomo Corno, un commercialista che ha guidato la ristrutturazione di molte imprese all'interno della Brianza, ma che ha fatto anche opere molto significative come il centro studi d'impresa, come esperienze anche del campo delle Onlus con iniziative per le adozioni internazionali. Ma iniziamo da Vittorio Merloni. Vittorio Merloni è un nome molto conosciuto, è stato presidente di Confindustria, e a Vittorio Merloni dedica un libro edito dal Mulino Valeriano Balloni con Paolo Pettenati. Valeriano Balloni è qui con noi questa sera, buonasera professor Balloni. Buonasera a voi. Balloni è stato tra i primi allievi di Giorgio Fuà, insieme a Paolo Pettenati, è stato tra i fondatori ed è ora vicepresidente dell'Istau, l'Istituto di Studi di Ancona, che è proprio dedicato ad Adriano Olivetti. Adriano Olivetti è parte di questo libro perché il titolo è proprio Vittorio Merloni, un imprenditore olivettiano. Ecco, cosa intende Balloni per imprenditore olivettiano? Noi intendiamo sostanzialmente più cose, ma riducendole all'essenziale, noi in primo luogo consideriamo l'imprenditore olivettiano un imprenditore che guarda soltanto al futuro, il meno c'è che il futuro, diceva Adriano Olivetti, e Vittorio Merloni aveva ripreso questo particolare atteggiamento di Adriano Olivetti, perché guardava da lontano, appena realizzava un suo progresso ne guardava subito non soltanto gli effetti a ritroso, ma guardava avanti dove doveva appoggiare le nuove frontiere della sua azienda. Ma la sua azienda era poi l'imprenditorialità italiana, certo. Perché lui, se posso già sottolineare, non vedeva altro nell'imprenditore una prospettiva unica. L'imprenditore è colui che deve investire, è colui che ha il coraggio di portare le frontiere sempre più avanti. Ecco, con un forte legame con il territorio, peraltro un legame con il territorio che era forte appunto nella realtà locale delle Marche, ma che è diventato poi una dimensione che incorporava tutta l'Italia quando Merloni è diventato presidente di Confindustria. Beh, certo, questo è il secondo aspetto che lei mi ha anticipato di quello che noi consideriamo avere una impronta olivettiana, l'opera imprenditoriale di Vittorio Merloni, questa visione della comunità, la comunità che certo non era quella dominante in una regione come quella delle Marche, perché ovviamente l'esperimento di Adriano Olivetti avveniva in un'area dove lui era la grande impresa e che naturalmente coinvolgeva tutta la comunità. Vittorio Merloni, così come il padre fondatore della Merloni, hanno guardato a creare soprattutto quelle basi allo sviluppo di una imprenditorialità più piccola, minore, ma anche quella ricca di idee imprenditoriali, che è stata capace di produrre così un modello che noi abbiamo ribattezzato un poco il modello NEC, non Test Centro, perché queste caratteristiche di sviluppo dell'industria basate sulle piccole imprese e su microsistemi produttivi si è estesa tutta non soltanto nelle Marche, ma nel centro e nel nord Veneto compreso. Ecco, sono stati però anni molto positivi per l'industria, gli anni 70, gli anni immediatamente successivi al miracolo economico, in cui sono presentate le condizioni appunto perché l'industria potesse crescere. E poi forse, come lei stesso sottolinea, il richiamo di Merloni, il richiamo a fare uno Stato, una scuola, delle imprese che fossero in grado di competere, è stato raccolto solo in piccola parte. Purtroppo, come succede molto spesso nel periodo in cui c'è stata questa forte tensione su anche, diciamo, l'ammissione o meno nella nostra cultura di un'imprenditorialità, gli anni 70 sono stati gli anni di fuoco per gli imprenditori, ma la presenza di imprenditori del calibro di Vittorio Merloni che guardavano avanti e che pensavano che fosse proprio compito dell'imprenditore di tracciare soprattutto le strade più innovative che potevano essere aperte anche al nostro paese, che usciva fuori non soltanto da una contestazione come imprenditorialità, ma da una cultura che non era quella dell'impresa, era una cultura basata molto più sull'agricoltura ed altro. E quindi queste sono naturalmente le imprenditorialità che poi avevano quel senso del dovere, dicendo Vittorio Merloni proprio in un passo della sua relazione che tenne agli imprenditori nel 1900, all'inizio degli 80, quando si insediò come presidente, dice: beh, noi dobbiamo innovare, ma il compito di innovare è quello dell'imprenditore. Lui non concepiva un imprenditore come un rentier, insomma come un capitalista che ha raggiunto la sua dimensione, il benessere, può continuare a fare impresa, ma senza più quella forte tensione per guardare oltre. E questo è il privilegio di gente come con imprenditori come può essere stato per Luxottica del Vecchio, sì, e altri che ne abbiamo, grazie a Dio, un buon nucleo, ma forse non sufficienti ancora per imprimere alla nostra economia tutt'oggi quello che dovrebbe essere il progresso nell'innovazione che hanno avuto altri paesi. Ecco, in questo possiamo dire che i richiami e la testimonianza, in fondo, di Vittorio Merloni, che è racchiusa anche in questo libro, è ancora molto attuale, è ancora di grande attualità in questa fase in cui l'innovazione gioca forse un ruolo ancora più forte di prima, e che è ancora più necessario che insieme all'innovazione ci sia quella volontà di essere aperte alla società, alle nuove idee, aperte ai giovani, come ci ha testimoniato Vittorio Merloni, professor Balloni. Un messaggio proprio che lancia Giovane anche in un passo del volumetto che abbiamo ripreso in una sua intervista, in una lezione che tenne ai laureandi di ingegneria ed economia del mio ateneo. Lui disse chiaramente che l'essenza, il sapore, quasi il profumo del successo è quello che si ricava da quello che è il guardare ad investire nelle innovazioni. C'è quel bellissimo episodio che viene narrato nel volumetto, che Vittorio sfrutta una burla di una rivista, certo, tecnica, che per il 1° di aprile dice che tra la Merloni e la Apple americana vi è l'idea di poter sviluppare uno smart washing machine, la Lavintosh. Vittorio Merloni non ci pensa due volte, è una burla, ma lui la traduce in uno stimolo andare oltre e a presentarsi a Cupertino con il suo team dedicato all'innovazione per capire la fattibilità di un percorso come era quello, certo, stato indicato come sterzo. Tutti i particolari anche di questa vicenda, sicuramente molto interessante, la si trova in questo libro. Io ringrazio Valeriano Balloni di essere stato con noi questa sera, di averne parlato. Lo ricordo il titolo: Vittorio Merloni, un imprenditore olivettiano, edito da Mulino. Sono 120 pagine per 12 euro. Ecco, dopo aver parlato del libro su Vittorio Merloni, parliamo di un altro libro dedicato a un altro protagonista dell'impresa. L'uomo al centro dell'impresa è il titolo di questo libro, Giacomo Corno, dalla Brianza al mondo. L'autrice è Stella Casiraghi, la prefazione è di Don Antonio Mazzi. Ecco, Stella Casiraghi, Giacomo Corno, come si può definire in 30 secondi questa personalità che ha caratterizzato gli ultimi 50 anni della vita imprenditoriale della Brianza, che è scomparso appunto nella primavera scorsa? Giacomo Corno è stato davvero un grande innovatore. Questa monografia cerca di raccontarne le gesta, io definirei, perché un po' eroe lo era, in un territorio come quello della Brianza produttiva, che spesso è stata narrata, a mio parere, in maniera un po' superficiale, con una scarsa conoscenza ed erudizione proprio del territorio in senso stretto. Questo mi interessava proprio, ecco, attraverso la vita di questo imprenditore aziendalista, cercare di entrare un po' nelle pieghe dei valori appunto di produttività e innovazione che il territorio della Brianza porta con sé. Ecco, Giacomo Corno ha accompagnato molte imprese nel loro periodo appunto di crescita e di ristrutturazione, di passaggio generazionale, ma è stato anche un protagonista della vita sociale, ha creato il centro studi di impresa, ha organizzato molte missioni all'estero per gli imprenditori, ha creato anche delle iniziative sociali, e peraltro Don Antonio Mazzi, che scrive la prefazione, ricorda appunto la passione di Giacomo Corno verso la società civile. Ecco, questa multiforme esperienza esperienza, come può essere riassunta in un certo profilo dal punto di vista proprio umano, dal punto di vista personale? Giacomo Corno chi era? Giacomo Corno era certo un commercialista, come abbiamo detto, nella proprio, dal punto di vista proprio delle sue origini professionali, però è identificato senz'altro in modo pieno come un imprenditore. Ecco, chi è l'imprenditore? Ci sono diversi volumi che anche recentemente ci inducono a pensare bene a proprio alla persona dell'imprenditore. Chi è? È sempre, secondo me, l'imprenditore vero, uno attento molto all'ambito sociale. Un imprenditore è sempre un innovatore che corre, diciamo, i corridoi del suo contesto e cerca di innovare senz'altro all'interno dell'impresa, innovando e comunque coordinando i suoi collaboratori, ma essendo assolutamente attento in maniera molto, direi, precisa, decisa a quello che accade. Nel caso di Giacomo Corno il suo impegno è veramente multiforme, variegato e infinito, direi. Io non sono riuscita quasi a sintetizzarlo in questa monografia. In primis ricordo il suo impegno, che è stato anche veramente molto importante, nella ricostruzione del post terremoto in Friuli. Certo. Oggi, diciamo, il tema è assai caldo, date le circostanze del terremoto nel centro Italia. In questo caso anche lì fu un imprenditore, oltre ad essere un volontario, come dire, capace e molto, diciamo, disponibile, perché mise insieme tutta una serie di imprese del territorio, ma non solo, soprattutto quello lombardo-veneto, per aiutare a ricostruire un intero paese, Montenars, vicino a Flaipano, appunto, che era stato distrutto completamente dal terremoto negli anni 70. E da qui è partita tutta un'iniziativa, tutta una volontà di realizzare anche delle opere concrete a favore delle popolazioni, ma poi anche a favore del suo territorio, della Brianza. Abbiamo parlato appunto dell'iniziativa della ONLUS per le adozioni internazionali, ma ci sono tante altre realtà che non possiamo per ragioni di tempo approfondire, ma invitiamo a guardare, a leggere questo libro, L'uomo al centro dell'impresa, Giacomo Corno dalla Brianza al mondo, che raccoglie appunto, grazie a Stella Casiraghi, queste esperienze e le ripropone come elementi capaci di dare appunto un senso anche a quello che ogni imprenditore deve fare. Grazie Stella Casiraghi. Ricordo il libro L'uomo al centro dell'impresa, Giacomo Corno dalla Brianza al mondo, edito da Guerini e Associati, sono 128 pagine per 17,50 euro. Grazie anche a Filippo Reggi in regia, Luca Cremonesi in redazione. L'appuntamento con Economia in Pagine è per sabato prossimo.